1강 어휘 che cosa che cosa essere questo questi questa queste cane casa chiave cosa cuoco finestra giornale gomma libro luce mano matita metro orologio padre pavimento penna pianista porta problema programma quaderno sedia soffitto tavolo televisione no sì 문형 Questo è un libro. Questi sono libri. Questa è una casa. Queste sono case. Che cos'è? Questo è un quaderno. Questa è una gomma. Che cosa sono? Questi sono quaderni. Queste sono gomme. Deva. Che cos'è? Questa è una televisione. Che cosa sono? Queste sono sedie. Questo è un libro? No, questo è un quaderno. È una porta questa? No, è una finestra. Queste sono penne? Sì, sono penne.